vuoi, resto qui, ricomincio insieme a te. Vedrai, guarirai, ti aiuterò a sorridere se vuoi, se vuoi. Io e te torneremo quell'attimo smarrito tempo fa. Siamo forti noi, abbiamo gli occhi chiari noi, è un sogno in più. Mai, mai, mai, non tradiremo mai la verità. Tu che sei mio fratello, la mia donna, il mio Dio, tu che vivi in silenzio, non scordare il nome. Paura di te, quando come un bambino crederai, sono qui. Lo so che cos'hai, quei fantasmi intorno a te. Non dire di no, domani sarà certo il giorno tuo. Vedrai, andrai forte e fiero nel mondo che non ti ha creduto mai. Noi, noi, noi, noi siamo forti noi, abbiamo gli occhi chiari noi, e un sogno in più. Mai, mai, mai, non tradiremo mai la verità. La mia donna, il mio Dio, tu che vivi in silenzio, non scordare il nome mio. Sono qui quando dormi, se hai paura di te, quando come un bambino tremerai. Ma che cosa hai, fratello? Tu non mi senti più, sarà triste il risveglio.